Invece con la crisi che c'è, ognuno va, fa il lecca culo. Sì, ma è proibito dare soldi contanti, adesso in assegno per forza si devono pagare. L'ultima volta che io ho lavorato, soldi contanti non si ne budia ne dà. Addirittura da ne va, tu va una carta prepagata per risultare i soldi che il comune ti dava, non ti ne buoni più da in contanti. Il comune è quello, sì, quello che è stato stabilito dalle tabelle sindacali ti dà, però parlando di imprese private, quelli giocano come vogliono, capito qual è il discorso, Natali? Quello lo so, perché quelli te lo mettono su un conto corrente, te li mandano, ti fanno un bonifico mensilmente sono quelli stabiliti e basta. Ma ci sono quelli che invece li prendono in contanti dalle imprese, dalle ditte, eccetera, e surdi, che si buoni, poi come contributi, questo qui è un operaio semplicissimo, addirittura è un apprendista, e pagano i contributi in base a quello che decidono di loro, non a quello che vale l'operaio, ecco qual è il discorso. No, è legge proprio, che non gli possono dare più contanti, e ci deve essere anche la qualifica in busta paga. Io mi avevo scritto nella busta paga proprio cosa ero e cosa non ero. Adesso neanche le imprese possono dare più soldi contanti, io penso, perché mi sembra che era passata legge che te li devono dare o in assegno o ti devi andare un conto corrente per poterti versare i soldi. Soldi contanti in mano non te ne dati né più, la canta giù compreso, e così è meglio, non mancano un po' i bugi. Ehi, Natali, ma se i soldi loro te li versano sul conto e ti dicono, guarda, se non ti piace così, perché tu vedi la busta paga di 1.700, ma nel conto ne hai 800, e ti dici, non ti sta bene, vattene, e tu sei zitto, non è che poi dopo variati anni o anche dopo un anno vai a denunciarli, cosa denunci? Sei stato zitto fino adesso, denunci, devi denunciare dal primo mese, quando la cosa non ti è piaciuta, giusto? Che nel conto avevi 800 invece che 1.700, allora devi andare a denunciare, ma non dopo anni, perché il sindacato ti dice, ti è piaciuto, lo sapevi che stavi prendendo quello, ed eri d'accordo, cioè non è che per poco di VG, è quello lo sbaglio, che purtroppo la gente sta zitta perché c'è il mutuo da pagare, quello da pagare, e stanno zitto e si biglietterà. L'altra metà, intanto, lo prepari, si rigodi Edu, hai capito cosa ti voglio dire? Non lo buono più fa, perché se tu firmi una busta pagata 1.000 euro, per esempio, mettiamo il conto, 1.000 euro, nel conto ci devono essere 1.000 euro, perché se ne sono di meno, a chi dura arrecciani? Chi vede in chi lo stipendio di manco, e che tu hai firmato una busta paga, e fate una cosa pure a te, cosa hai firmato la busta paga di più, diciamo così. E la tasca pattuglia qual era, infatti, l'ultima che avevano fatto? Io ti do questo in busta paga, te lo do in banca, poi tu prendi dalla banca e me lo restituisci in contanti. Non hai compreso che verso la tasca pattuglia? Non ti biasi? Vattene! Io faccio tutto in regola e non puoi dire allo sindacato, ma io li prendevo, glieli davo. Dove c'è scritto? Dimmi dove c'è scritto che tu prendi i soldi, la metà dei soldi dalla banca e glieli davi. Dove c'è scritto? Lui li ha versati sia qui in busta paga che in banca. Qua risulta tutto a posto. Però tu, minacciato, prendevi dalla banca, pronti, e vi ridurravi magari in metà stipendio o un terzo dello stipendio, glielo restituivi. Se ti arrabbiazzuto, era così, se no ti andava zì. Giusto, Giulio? Sì, ma è così, in effetti è così. Fate far vedere a voi lo sfruttamento anche delle ore di lavoro. Ad esempio, io mi ricordo, io ho lavorato sotto impresa, era un'industria addirittura, e dovevi fare dalle 8 fino all'1, per dire, era la mattina, e la sera dalle 2:30 fino alle 7, allora gli orari erano quelli. Allora, intanto dalle 8 all'1, noi la mai dalle 8 all'1, ma era sempre dalle 8 all'1 e 10 come te minimo. E così altrettanto altri 10 minuti te ne rubava la sera nell'altro orario, tu moltiplicalo per 70 operai dove lavoravo io, quanti ore di guadagno va via dall'azienda, per dire no, e poi ti dava uno stipendio e ti assicurava per un altro. Prima era così, oggi magari può essere che sia migliorata la situazione, ma non credo però, intanto il sistema lo trovano sempre, come fregare il lavoratore, Natali. Perché le chili ci sono sempre, Giulio, te l'ho detto, l'ultima cosa che fanno è questa, io ti do tot, poi tu vai in banca, li prelievi e me ne dai 400, me ne torni 400, capito? Fate negoziare e risulta tutto, no? Risulta tutto, non è che c'è poco a scappare, che io do in banca, li prelievo e li do la roba principale, e se ti perdi così, se no ti nandi, ti dici, lasciamo perdere, c'è uno sfruttamento, uno schiavismo, che schifo, cacchio. Schiavismo c'è tanto e non ci sono dubbi, ma io mi ricordo una sera ero in banca ed erano già le 5, una cosa del genere, praticamente la banca stava quasi per chiudere la sera, no? Arriva questo ragazzo, un giovanotto, che lavorava per le strade, lavoravano, faceva gli scavi nelle strade, faceva manutenzione, eccetera, eccetera, no? Tutti questi lavori stradali. E arrivi Dughito, tutto sporco da lavoro, giustamente, era appena, e doveva cambiarsi la segno. Eravamo già in venerdì, dunque sabato la banca è chiusa. Dito, io ho la segno, lo devo cambiare adesso. È arrivato, entrava dentro quella specie di gabbia girevole che c'è in banca, solitamente, bloccato, non andava avanti, non si apriva la porta. Perché non si apriva? Perché questo tipo qua aveva le scarpe antinfortunistiche e dunque col ferro nella punta, eccetera, no? E la porta non si apriva proprio per il fatto dell'antimafia, no? E chi cosa ha fatto? A un certo momento è stato costretto, dopo tanti tentativi, è stato costretto a togliersi le scarpe ed è entrato alla cuzza in banca o Luca, che era quasi ora di chiudere, ci mancavano pochi minuti alla chiusura della banca. Poveretto, questo qui tu lo vedevi, un'umiliazione tremenda, perché quando si è tolto questi scarponi aveva le calze, badugna bucco, i gassetti, che era una cosa, guarda, che era anche penoso a vederlo, ti faceva proprio pena questa persona, però alla fine l'hanno accettato per poter cambiare lo segno, perché prima quando lo vedevano che lui tentava di entrare, lui faceva gesti, faceva contro gli impiegati, però nessuno gli apriva la porta, noi la sbloccavano, lui non riusciva a passare perché aveva le scarpe antinfortunistiche, o Luca. Sì, succede con le scarpe antinfortunistiche, sì, succede anche con le chiavi addirittura, che te le fanno mettere nell'armadietto, però io dico, se sono le scarpe, me le tolgo dentro la gabbina, me le tolgo, le appoggio fuori, chiudi la porta, non suona, vedi, sono le scarpe, fammele rimettere, me le rimetto dentro la gabbina e entro in banca, cioè non è che ci vuole chissà che cosa, cioè, non, le chiavi ok, le metto dentro l'armadietto, chiudo, entro in banca, ma le scarpe, ti dimostro che le appoggio fuori, chiudi la porta, non suona, me le fai rimettere e entro. Ma figurati se fanno questi favori, la PD, quando vedono uno così, dice, oh, questo qui è un disgraziato, no, la PD. Se invece viene uno tutto quanto bello, elegante, può essere il più delinquente del mondo, tutto bel tirato di collo, quello lo fanno entrare, gli fanno anche l'inchino, e allora è molto funziona, no, in Italia. Vai, Natali. Così, Natali lo sta friggendo. È così, sì, se entra uno in giacca e cravatta, tutto bello elegante, ma con le scarpe antifortunistiche le porte si aprono, guarda, così bene. Appunto, e magari il seduttore elegante è un truffatore o un delinquente, non abbiamo, invece un poveretto che ha lavorato tutta la settimana, va lì per cambiarsi l'assegno, per poter comprare il pane per la prossima settimana, perché glielo danno all'ultimo momento, ma quando mai, ragazzi, da un'azienda, invece che me le do prima, magari glieli do anche contanti, in modo che non abbia poi problemi da cambiarlo, eccetera, invece che tu gli dai l'assegno a zinco, ma con quattro, arrivare in banca, eccetera, sono già di zinco e non fa in tempo nemmeno a cambiarlo. No, non è corretto, guarda, il lavoratore è trattato male in tutti i sensi, non c'è niente da fare, Luca. Sì, hai perfettamente ragione, guarda, io sono qua, quando ero qua, quando ero come cugino mi pagava benissimo, busta paga, tutto perfetto, quando ero con mio cugino, con, cioè con l'ex marito di mia cugina. E, però quando, quando ero in panificio, dovevi obbligarlo, ma pregarlo, Zorba, dammi un acconto, ma dammi 50 mila franchi d'acconto, capito? Dovevi obbligarlo e non ti veniva zio, poi ti faceva firmare naturalmente i fogli per quelle 50-100 euro che ti dava, capito? Guarda. Invece quando ero fuori, quando il principale, quando ero in continente, mi diceva il principale, guarda che, ma neanche a fine mese, mi diceva guarda che la busta, c'è già la busta paga, vai da mia moglie che ti dà l'assegno, capito? Cioè io rimanevo così, agito, ma già mi facevano al Sassari così, a dire vai che ti dà l'assegno, sì. Oh, sono rare solo quelle imprese che ti danno i soldi all'ultimo momento, anzi lo fate apposta, te le danno proprio a quell'ora di chiusura della banca, in modo che tu non puoi andare a cambiare subito, così gli rimangono tutto il sabato o gli rimangono i soldi in banca e tutta la domenica, poi magari deve andare l'uni, deve andare, magari deve mandare, che so io, un tuo familiare a cambiare l'assegno perché tu devi rientrare anche al lavoro. Tutto fatto con scopo, così faccio due giorni di interessi del mio conto corrente in più, ecco, preso come te, è tutta una manovra, comunque è tutto un sistema per trattare sempre più male il lavoratore. Sì, no, in continente è l'unico posto dove sono stato non bene, no, di più. E addirittura se eravamo per dire in centro, per dire io ero a Parma, in un paese vicino a Parma, e c'erano 30 km da fare, no? Allora il principale dizia voi alle 5 i camion devono essere, i furgoni eccetera, devono essere già dentro il capannone alle 5, sicché non è che tu partivi alle 5 da Parma e ti facevi quei 30 km eccetera. Lui ti diceva alle 5 i mezzi devono essere già dentro il capannone, sicché tu ti regolavi, pacchiavi 4 mesi così, cioè mollavi il lavoro già un'ora prima, ma a lui non interessava, interessava che tu alle 5 e mezzo era già dentro il capannone. Ti puoi immaginare, falli i loghi, sì. Poi se tu lo presenti, no? Che se devi uscire alle 5 la campana, perché ci sono quelle che la suonano alle zicche dita, alle zicche un quarto, poi moltiplicalo per tutti gli operai che ci sono in un cantiere, ad esempio, 50 operai, e tu ad ogni lì nelle vuoi 10 minuti a manzano, 10 minuti a sera agli operai, moltiplicalo per 50. E poi vedi quante ore di lavoro risultano per gli operai in più quando a fine settimana. Purtroppo è così, sono qui, sono disonesti, ecco, disonesti in genere, sono disonesti, non nulla da fa. Ma e poi se mi serviva un assunto, sai che mi diceva il principale, Luca, se ti servono soldi lo sai, vada a mia moglie, fatti fare l'assegno di quello che ti serve. Cioè a volte mi sentivo male, uno scherzo, ci sono le telecamere da qualche parte, no, perché in Sardegna queste cose non succedevano. Lo so, ma sono altre aziende con altra mentalità, però ha bisogno di sì, tranquillo, che li sfruttano, e come li sfruttano, altro che uia. Purtroppo, ripeto, e cura a chi è povero, che dipende sempre da questa gente, perché tutto sommato si può dire che dipendi sempre da chi ha più soldi di te. Aziende è stato e tutto, e purtroppo è così, non la va. È un po' come il discorso, ad esempio, prendi tu, oggi c'è il diritto di cittadinanza per chi ha bisogno eccetera, no, ed è anche giusto per chi ha bisogno, ma per chi veramente ha bisogno, per chi non ha bisogno tu non ne devi dare, però dai 280-300 euro ad un invalido che è nella sedia a rotelle, e dai 280-300 euro di pensione. È un ragazzo di 20 anni sino ai 30, ai 50 anni, gli dai 800 euro senza fare niente, tutta l'altra la domanda. Ma ti sembra giusto questo? Cose assurde veramente, guarda. Sono cose assurde perché non ci sono i controlli. Infatti io prendo 3,24, cosa di griglia che piglio. e il reddito, ma perché? Perché io se faccio 4 ore di lavoro so che una guida dalla Cina, cioè è tutta roba certificata, o Giulio, non è una roba che immagino in 22 euro, sicché purtroppo è sbagliato, però devono anche dimostrare che il lavoro c'è per tutti quelli, sia con la scusa che non vogliono lavorare o qualsiasi altra scusa, però il governo deve dimostrare che in quella regione, come la Sardegna, come tante altre regioni, a Napoli, Sicilia, da qualsiasi parte del sud, a chi di no che si è favida del sud, no? Deve dimostrare che c'è lavoro per tutti, no? Non solo dire ma quello non ha voglia di lavorare, no, tu devi dimostrare però che c'è lavoro per tutti quanti. È certo che è così che deve essere, perché è un diritto sacrosanto avere un lavoro per tutti, è un diritto sacrosanto, sì, anziché viziarli certe persone con tutti questi soldi che dai così, senza avere un minimo di interesse da parte di nessuno, no? Lo Stato deve pensare di fare lavori produttivi e poi li paghi con uno stipendio adeguato alle esigenze della vita, non con una miseria tipo il reddito di cittadinanza, perché tutto sommato se pur li dai 700 o 800 euro ti stai dando una miseria, però stai abituando le persone ad essere fannulloni, ecco qual è il discorso, e invece no, fai lavorare, li paghi come devono essere pagati e allo stesso tempo quelli si integrano bene nella società. Invece se tu li tratti in questa maniera e gli regali i soldi e poi va a finire che le imprese, per dire, ti danno 100 euro in più, che tu dici no, ma 100 euro mi tengo il decreto di cittadinanza, però me ne sto a casa tranquillo e libero, ecco come. Ma infatti alle aziende cosa ha detto quello in televisione? Alle aziende noi facciamo così, queste 700 euro noi diamole all'azienda e l'azienda mette la differenza, invece di darle all'operaio per farsene a casa sul divano, diamole all'azienda e l'azienda poi mette la differenza, così è aiutato sia l'uno che l'altro, soprattutto l'azienda, che gli conviene che 700 euro li dà il governo all'azienda e l'azienda deve mettere solo la differenza. Caspita, per un'azienda non sono pochi soldi, 700 euro, inizia a prendere 10 persone che prendono il reddito di cittadinanza nella tua azienda e sai che 700 euro te li sta dando il governo per darli a quell'operaio, vedi, quella è una cosa buona, però devi anche dare il lavoro. Certo, è ovvio che devi creare lavoro, se non crei lavoro non si può andare avanti assolutamente. Se domani c'è bisogno di me di dargli all'azienda, basta dirgli io a te quei soldi te li trago dalle tasse, il che significa che automaticamente avranno le tasse abbassate, invece no, uno biglia di 1500 euro al mese di stipendio e l'azienda ne paga 3500, poi complessivi, ma non ha di più, ha di assicurazione va a levare, non va bene così, tu così stai ammassando le imprese anche, e questo è anche un motivo per cui le imprese o falliscono o perlomeno non sono in grado di pagare gli operai con uno stipendio diciamo così più civile, ecco, dove nulla va, purtroppo è così, le aziende sono massacrate, troppe tasse, troppe, ma non è possibile però. Ma io sono sempre della convinzione che comunque la gente, soprattutto la nuova generazione, si sta stufando, che con la scusa tra l'altro dell'euro, io sono più che convinto anche che la colpa è anche dell'euro, che non, ormai il soldo non ha valore, capito? Non ha valore nel senso, tu da un operaio dalle 2500 euro minimo 2500 euro di stipendio e vedi come l'operaio ci viene volentieri a lavorare, ma perché? Perché sa che a fine mese, oltre che a pagarsi il mutuo, a pagarsi la circolazione della macchina, a mangiare, gliene rimangono, vedi come l'operaio viene volentieri a lavorare, ma un operaio che non arriva neanche a metà mese perché si deve pagare metà dallo stipendio solo di affitto, deve chiedere soldi in prestito per finire di mangiare. Uno, non so come dirtelo, viene scende la cosa, Giulio, cioè gli passa la voglia, non di lavorare perché la passione del lavoro ce l'ha, ma gli passa la voglia di tutto. Ecco che cosa è anche. Gli devi dare una scusa, gli devi dare un coso per lavorare, per far sì che col lavoro lui sia contento a fine mese. Secondo me è anche quello che la nuova generazione si sta truffando, dipende 700, 800, 1000 euro e 500 le pago solo di affitto, dai. E infatti non c'è la proporzione giusta tra sacrificio del lavoratore e spese, non c'è la proporzione giusta, ci mancherebbe altro, ma purtroppo oggi siamo qui in questo stato e in tutti questi anni la politica italiana non ha fatto mai niente di positivo a favore della povera gente, ha sempre pensato alle grandi industrie a dare finanziamenti, a dare italiani, e poi se ne vanno all'estero le industrie con i soldi degli italiani guadagnati dai lavoratori italiani, si hanno preso il finanziamento e loro se ne vanno poi all'estero a pagare i dazi all'estero, e l'Italia non è capace di farsi rispettare e farsi restituire tutto quello che hanno dato alle aziende per crescere. Purtroppo, e dico sì, già lo sappiamo, e cosa ci vuoi fare? Purtroppo noi non ci possiamo fare niente, è la politica che si deve adeguare e cercare di fare riforme serie e valide, soprattutto in difesa della povera gente, no? Dei grandissimi capitalisti, perché oggi l'Italia è formata da più capitalisti di quanto ci sono poveri lavoratori. Poi parlano, senza contare, quando parlano di dignità, no? Dice ma non la dignità dove ce l'hai che prendi i soldi per stare sul divano? E invece la dignità dove ce l'ho che prendo 1000 euro di stipendio facendo 12 ore al giorno e devo andare in chiesa a chiedere la spesa, a chiedere la roba da mangiare, oppure devo andare al dormitorio pubblico? Quella dov'è la dignità che non arrivo neanche a fine mese? Ma dai! E appunto, anche quello fa parte del cattivo trattamento della gente, soprattutto della classe operaia, della classe lavorativa. Purtroppo dico sì, ma io dico tutte le categorie di quelli che lavorano, non solamente quelli che se ne stanno a pancia all'aria, eccetera, tutte le categorie. Purtroppo dico sì, caspita, adesso prendi tu i nostri poliziotti che ci difendono, che noi vogliamo tanto bene, anche quelli sono trattati male, per quale motivo non li paghi come si deve anche loro? Invece me li mandi lì a fronteggiare questi scalmanati che ci sono, caspita, con una paga misera che gli stai dando, pagali bene e fai le leggi come si deve contro i malviventi e vedrai che la situazione si rimedia. Invece no, i poveri lavoratori, quelli che sono messi apposta per difendere noi tutti, devono affrontare certi scalmanati con una paga che poi non è adeguata al loro lavoro. Ecco qual è il discorso. Purtroppo è così, in tutte le categorie ci sono sempre, oltre chi lavora è sempre soggetto allo sfruttamento, non vende da là. Sì, è come è sfruttato sia l'operaio manovale che l'operaio poliziotto, comunque sia operaio è, no? Però c'è da dire sempre anche un'altra cosa, Giulio, se tu sai che entrando in polizia vai a prendere quel misero stipendio per quello che fai, è una tua scelta poi, capito? Andare, piuttosto allora il poliziotto dovrebbe dire ma cammino quasi va a me, rischiare la vita tutti i giorni per prendere la paga di quel manovale, e me ne vado manovale piuttosto, perché prendo la stessa cosa, le 5 ho finito, lo stesso stipendio, cioè vedi, parlando, perché uno poi dice ho la passione di fare il poliziotto, come quello che ha la passione, sì, ma la passione deve essere anche ben retribuita, non è solo piacerti il lavoro. Quando tu dici che ti piace quel lavoro e che ti però prendi 700 euro, stai facendo ridere il governo, lo Stato, perché loro dicono questi con la scusa della passione la dignità se la mettono sotto i piedi e noi continuiamo a dargli quel misero stipendio. Ma ti rendi conto? Sì, ma è così, è così, in effetti è così. Cioè chi ha bisogno di lavorare già in partenza perde la sua dignità. Perché la perde? Per il semplice fatto che non ha una retribuzione adeguata. Purtroppo è così. E cosa mi vuoi fare? Io non mi intendo di politica, però certe cose le possiamo anche capire, non solamente io che di politica non le capisco, ma lo capisce chiunque, anche i bambini lo capiscono questo, che uno che lavora, che mantiene in piedi la nazione, che contribuisce a mantenere in piedi la nazione, perché sono sempre i lavoratori quello che ti portano avanti la nazione, devono essere retribuiti meglio e trattati meglio e soprattutto rispettati. Invece manca il rispetto, manca la retribuzione adeguata, manca tutto. Purtroppo è così, che cosa vuoi fare? Non lo so io come si deve rimediare. Bisogna dirlo chi ne sa più di me. Come si può rimediare? Gli scioperi, ma dobbiamo essere tutti uniti. Tutti dobbiamo essere uniti, non è che ognuno guarda il suo portafoglio. Io ho fine mese a arrivare, ho la macchina a pagare, ho quella a pagare. Se ragioniamo così andiamo sempre peggio, capito? Scioperi, ci vogliono scioperi. Vedrai che quando la gente sciopera, quella classe operaia, le cose cambiano. Invece non sciopera nessuno perché ognuno deve guardare a tasca sua. Oh Giulio, ti devo lasciare che mi stanno chiamando. Ma Natalino mi starà pranzando? Maledetto, quello se ne va a pranzo senza dire niente. E allora, perché è bello ci avesse invitato, invece non ci ha nemmeno invitato. Ma boh, ciao Luca, ci sentiamo, dai. Grazie per la chiacchierata. Ciao Natalino, se sei all'ascolto. Buon appetito a tutti e due, ciao. Ciao Giulio, altrettanto, rispondimi, ti ho mandato il messaggio. Ciao ciao. Ah, vabbè, non l'ho visto, dopo lo guardo e ti rispondo. Ma boh, ciao. Natalino sta cucinando. Ciao Conce, buona giornata. Natalino sta cucinando, sta facendo il suo dovere, guarda, sta facendo il suo dovere, mettilo a piombo e a lenza anche, mettilo. E allora Conce. Ciao Giù. Ciao Conce, dai, fallo lavorare, fallo schiavizzare anche a lui. Sto scherzando Conce, ma voi dai, ci sentiamo. Ciao Conce, buon pranzo anche a te, ci sentiamo le prossime, ciao. Ciao. Non parlare. Ah, funziona? E tu cosa vuoi? Cosa vuoi? Avrei voluto sapere cosa vuoi tu da me. Hai fatto prove Natalì? Hai risolto qualcosa? No, no, mi sentivo male e mi sento tuttora male, c'ho la schiena a pezzi. Quindi prove non ne ho fatto. Ho solo tolto il ferro da quel microfono, visto là che te l'avevo mandato quel ferro che c'era. 4 pezzi di quello c'era. E infatti ti ho mandato la risposta, ho scritto all'anima. Non dico io avevo capito che era una rondella. Quello era un bel pezzo, un pezzo di metallo presso fuso, altro che, per fare pesomi, per far sembrare che sia una cosa più di qualità. Ah, ma sai quanto è leggero il microfono adesso? Anche se è grande. Sì, e vedi, il mio non ce l'aveva. Infatti il mio era leggero, era solo plastica. Io, Natale, mi sono svegliato invece da poco perché ho fatto l'alba, sono andato a dormire che c'era già la luce del giorno, ma mi sono svegliato in condizioni pietose. Per carità, guarda. Io guarda. Non ho fatto né prove né niente per quello, perché non mi sento bene. Addirittura sono sceso a Platamona stamattina, ma non c'era sole. Bruno non c'è venuto perché era impegnato. Ho girato di culo la macchina e me ne sono tornato a Sassari. Ma poi sono a mal di schiena, ma ho preso anche il baccolo dalla macchina, perché non è possibile come sono ridotto. Mi rudendi buccia, lo so se vuol dire la debolezza. Viviamo brutti tempi. Io ho la testa in brodo, che non puoi capire, guarda. Sono riuscito a fare colazione, boh. E io mi ho già pranzato, mi ho mangiato un po' di gnocchi, ho fatto al ragù e due pezzi di salsiccione, basta. Di colazione ho mangiato appena di latte con due fette biscottate. Io però la colazione l'ho fatta adesso, e quindi quando a pranzare se ne parlerà alle 3:30, 4 anche, 4 di pomeriggio più o meno, Adesso riposati, distendi la schiena, cerca una posizione buona che ti faccia trovare sollievo. Io adesso mi faccio una lavatrice e poi si vedrà, dai. E avammi se faccia dalla lavatrice, avammi. Tutti a me stanno succedendo. Cazzo, c'ha il cestello bloccato, deve essere da qualcosa. Già lo dico a Franco a vedere. Il creme non mi devo comprare la lavatrice nuova pure. Chi c'ha la giubilata da Boggo nuova e già è barrata. Ma dimmi tu. Te l'ho detto, questo deve essere. Ti hanno messo occhio mi. La fattura ti hanno fatto. Sì, la borsa delle balle me l'hanno fatta. Mamma mia. Poi appena ti alzi, mi ha calciato mamma subito pretendendo, fai questo, fai quest'altro. Tu non vedi che sono muro? Vabbè dai. Il tempo di ingranare adesso, dai. Ok, siamo andati, riposati un po' la schiena e io faccio qualcosa in casa e poi cucino, eccetera. Se è il caso ci sentiamo stasera. Ciao. Io devo aspettare alle 2:30 purtroppo, perché mi devo misurare la glicemia, che sono tutto il giorno oggi sotto controllo. Ah, cioè devi stare sveglio fino alle 2:30 e misurare la glicemia. E 2 ore dopo che ho mangiato, me l'ho misurata prima di pranzo, 2 ore dopo pranzo, stanotte a cena, a colazione me l'ho misurata, 2 volte, prima e dopo bisogna fare, 2 ore dopo. Lunedì e martedì. Capito? Tutta la... No, ma questa settimana nulla ne ho misurato, quindi almeno un giorno lo devo misurare. Una bella seccatura, E qua come mai c'è il microfono a 10? Adesso l'abbasso. Aspetta, com'era? Non vedo niente nemmeno, c'ho gli occhi pieni di cispe. E dopo me lo regolo, dai. A 5 mettilo come lo metto io. Comunque l'MB più 4 è un bel microfono, l'MB più 4. A me piaceva, sai cos'è? È più pulito come linea, perché non ha, cioè non c'ha lo smitter inutile, il V-meter, il tono, bello, c'ha solo il volume, il tono va sempre bene, ho notato. E che costano parecchio, cioè rispetto a una volta i prezzi sono saliti molto di questi microfoni, cacchio. Io ti regalo il Turner, a voi, ti faccio gli attacchi per quello lì e ti do il Turner, altro che MBG5. Sì, l'uno non vale l'altro, non è che l'importante è non sparargli troppi watt. Comunque Natali, poi quando lo farai, il 3009 staccalo dall'alimentazione e lo accendi e gli fai scaricare i condensatori e poi lo riattacchi. È una cavolata, però prova. Lo scarichi, se l'essenza alimentazione lo accendi, così si scaricano i condensatori e poi provi a riattaccarlo. Ma dubito sia quello. Qua è perché è digitale, no? Qualcosa si è incasinata col firmware, con la procedura di avvio, è un computer questo. E anche questo, da di gridi, è così. No, ma dico, il 3009 per fortuna è più semplice, cioè non è che c'ha il firmware, quelle cavolate lì, è più semplice, capito? Più meccanico, là, quasi. Vabbè, già hai capito. È analogico. Non è come intervisti sofisticati. Non ha menù il 3009. Cioè, mi dispiace se non riesco a aggiustarlo. Beh, quello sarebbe un peccato, però... Anche se fosse il modulatore, Natali, non è grave. Cioè il modulatore lo si mette a posto, capito? Il transistor lo trovi pure in vendita, se va per quello, il transistor di modulazione. Ma che sia quello, che per puro caso, cioè, gli hai dato un microfono troppo alto, magari tu senza le alette, con l'opzione per far uscire più forte, metti che... Come se c'è stato un rumore, gli è arrivata di botto una tensione troppo alta in ingresso e l'abbia un po' sciabidato, boh. Ma è strano perché o non esce o fischia, è come se ci fosse qualche terminale del microfono dentro che o tocca o non toccami. Perché o fischia forte, come hai sentito nella registrazione che ti avevo mandato, oppure esce tipo Radio 1, sai quella radio fantasma, no? Come quando ti si stacca la capsula microfonica o falso contatto, così fa, eh? No, mi si è allentata la ghiera della presa, e infatti mi toccherà aprirlo adesso, perché il microfono non c'ha niente, e l'ho provato anche sopra questo e funziona. E se vuoi te lo faccio sentire, ce l'ho qua. No, già. Non c'è bisogno, già. Si è capito che non è il microfono. Cioè non sono i microfoni, è l'apparato. E lì basta poco, mi. Basta poco. Che si muova, magari ruota e tocca qualcosina, no? Tocca e non tocca, mi, eh. Va bene. Mi avevi detto stamattina non c'era sole o c'era sole? Ma adesso mi toccherà aprirlo e vedere un po' cosa. Sì, non è un problema, dai, tanto mi pare che non abbia nemmeno sigilli il 3009. Anzi, guarda, ben pochi baracchini hanno i sigilli. I CRT non ne hanno, i presidente non ne hanno. È raro trovare adesso un baracchino col sigillo. Di solito il sigillo forse lo mettevano i venditori, dice il negozio che te lo vendeva metteva un suo sigillo, un suo adesivo, no? Per evitare di manomissioni, per la garanzia, mi. Sì, infatti è per quello, è per quello, Marco, per non aprirlo, ma questo non è a sigilli il 3009. Va bene, ok. Neanche quello ne ha, neanche questo che sto usando ne ha sigilli. Si sente un allarme, vediamo se lo senti. Faccio una prova, quindi qua sono 3 watt massimo 4, aspetta, fermi tutti. Così in FM potrebbe essere 3 lo stesso, 3 o 4. Marco, e io? No, perché ho sentito uno parlando tipo in FM. No, ero io, stavo misurando i watt. No, perché è regolato così, sono circa 4 per pilotare il lineare, no? Circa 4 in AM e passando in FM sono lo stesso, circa 4. Diciamo regolato così e allineato tra AM e FM, buono così, dai. Sai perché? Allora, questi apparecchi, certi apparecchi, quando usi il lineare devi stare molto attento, perché in alcuni, in questo no, però in alcuni li metti 4 watt in AM, poi passi in FM e magari te ne ha 10 o 15, e rischi di crepare il lineare, capito? E infatti, ma questi regolabili mi sembra che rimangono come li metti. Adesso non lo so in FM come fa il mio, aspetta che provo un attimo. Naturalmente io sto andando a occhiometro e senza il wattmetro. Io ho 2 tacchette sullo smitter, quando sono 2 tacchette sono circa 4 watt, 3 e mezzo, dai, 4 forse li darà modulati. E beh, Flo, vieni da Marco, vieni, se non vuol venire. Già ti metto al forno, vai, con le patate, vai. No, ne dà due soli, ne dà. Due tacchette solo dà anche questo. È così. Se non l'aumenti tu non aumenta. Anche questo scende. Io adesso l'ho regolato a 4 in modo da pilotare il lineare giusto, no? Però scende ancora, scende a 0 tacche. E sono circa 2 watt da 2 watt. Vieni Flo, vieni, vieni. Mia Natalino, mi? Vieni, vieni qui. Le senti la scimmietta? Mica mi fai cadere il baracchino? Dov'è, dov'è? Vieni qui scimmia, vieni, vieni qui. Ah, non vieni? Ah, non, già non ti do niente da mangiare oggi. Musita, graffialo. Vieni Flosso, vieni. Flosso. La senti? Flosso. Quanto è toga? Musi! Oh, io la scimmia, io la chiamo la scimmietta, no? Siccome è bianca e pezzata, no? Mi ricordo quelle scimmiette di piccola taglia che vedi nei film, no? Che fanno parti divertenti. Tipo quella di... com'era? Quel film, quelli che si svegliano un giorno, non so dove, in Thailandia, e non si ricordano cosa hanno fatto la notte prima, perché hanno preso droghe. Una notte alla Leoni, due mi pare, o tre, quel film. Io ho capito. E lì c'era una scimmietta di piccola taglia che praticamente usavano come corriere della droga, gli davano le dosi e la scimmietta andava, si avvicinava alle macchine e dava le dosi e le spaggiava, lo sai, e prendeva i soldi. Fu allucinante, guarda. E poi se la sono presa loro, eccetera. Scimmietta, vieni qua. Mangione, vai. Stai ingrassandomi. Qua in caso di guerra mondiale, quando non ci sarà nulla da mangiare, mi sarò costretto a mangiarmi il gatto. Le gatte, tutte e due. Una è proprio grassa. Sì, falle ingrassare bene, così al forno vanno bene con le patate. Come il coniglio, guarda, una la possiamo fare in umido, una la possiamo fare al forno con le patate. Ehi, voglia, voglia, ce n'è, poverine. Guarda, preferirei togliermelo di bocca io piuttosto che mangiarle. Oh, io lo dico così adesso, ma immagina conoscere la vera fame, proprio la disperazione. Chissà se uno resiste, oppure se ne mangerebbe. Perché noi adesso lo diciamo a pancia piena, a mente fredda, capito? Mamma mia, non ci voglio pensare, guarda. Sì, io da quando sono diabetico la conosco la fame. Vabbè, la fame è relativa, io parlo di fame... fame da non avere da mangiare per giorni e giorni, proprio in caso di guerra, come nelle guerre mondiali, cosa ne so io. E qua la situazione è bella calda, bella calda, vabbè in TV non ne parlano, però c'è un prepper canadese che ti spiega molto bene, non so se ti abbia contatti con chi, ti spiega molto bene le situazioni, fa vedere che anziché far raffreddare la situazione, anziché fare il de-escalate, qua stanno cominciando a... ogni giorno c'è qualcosa in più, un bombardiere in più che pattuglia la zona, anche a Taiwan la situazione che è calda, è tutta circondata di navi cinesi, capito? E a Taiwan c'è l'esercito americano, mi pare, è sbarcato lì, quindi se quelli attaccano Taiwan e colpiscono gli americani è fatta anche lì. Ci sono due fronti, un bel onfi. E purtroppo con le armi di adesso, se uno sgarra, partono di brutto. E non penso che ai cinesi li convenga. Se attaccano gli americani sono cazzi da... quelli prendono e radono al suolo la Cina. Però anche la Cina armi nucleari ne ha e sicuramente va a spalleggia la Russia, capito? Mica si mette dalla parte degli americani, si mette dalla parte dei russi. Poi i cinesi sono un miliardo di persone, sono un bene. Cioè, voglio dire, avranno di proporzione, avranno un esercito enorme, le forze armate in genere, saranno un gran numero, capito? Ma il telefono? Quello di mamma. Sì, Marco, io non penso che ci vada neanche un soldato, li buttano le bombe direttamente e sono affari loro. Neanche gliele buttano, i missili intercontinentali li buttano con le testate. E vedrai che la Cina non gli basta la gana. Non lo so. Però viviamo brutti tempi, guarda, non arrivavamo a questi livelli dai tempi di, come si chiama, nell'83 chi c'era, quel presidente che era anche attore, ricordami il nome, non mi viene il nome, cavolo. Reagan. Ma chi, Carter, stai dicendo? No, Ronald Reagan, che aveva detto pubblicamente in TV che la Russia era il male oscuro della terra, o roba del genere. E mica si era sbagliato, stava dicendo solo la verità. E vabbè, lui ragiona da americano, però anche gli americani sono sempre in mezzo in cavoli che non li riguardano, anche se anche loro potevano dire, noi siamo dall'altra parte dell'oceano, lasciamo che la Germania si prenda tutta l'Europa, che se ne frega. Però loro sapevano che tanto la Germania, una volta presa la Russia, una volta presa l'Europa, sarebbero passati anche dalla loro parte, capito? Avrebbero tentato col Giappone di attaccare gli Stati Uniti, magari la Germania dall'Atlantico, il Giappone sarebbe passato dal Pacifico a attaccare la costa ovest, hai capito, Natalì? E quindi andavano fermati, capito? Perché molti dicono, ognuno dovrebbe farsi gli affari propri, sì, gli affari propri, però vuol dire essere egoisti. Gli affari propri anche vuol dire, cioè, che quello si espande e prima o poi arriva anche a casa tua, quindi non ha senso dire farsi gli affari propri. E infatti è un macello. E c'è di ragione, ICAS la una e 10 a quando alle 2:30 praticamente devi aspettare un'ora, dai, un'ora e un quarto, E vabbè, che te devo dire, se vuoi ti faccio compagnia per adesso, tanto a cucinerò tardi. Ho fatto colazione, non è che ho fatto colazione, ho bevuto un bicchiere di caffè e latte e un plum cake piccolino, sai, quelli morbidi, no? E praticamente col naso me lo aspiro, non mi arriva nemmeno al gargarozzo. Sì, già lo so. Io mi ho mangiato due fette biscottate, due contate, e un po' di latte, di caffè e latte. E stamattina hai detto che ho girato la macchina e me ne sono tornato, hai detto ma che c'era sole o che non c'era sole? No, perché non c'era sole, capito? Non c'era sole, allora cosa ci rimaneva a fare solo lì? Già Bruno era impegnato e non ci è sceso, ma solo non ci facevo niente, se c'era stato appena di sole mi sarei rimasto un po', intanto di prendere appena di sole per quella vitamina D che sto prendendomi. Sono passato vicino a casa tua stamattina, perché la farmacia aperta era quella lì, per prendermele quelle gocce che le stavo finendo. Allora, quale? Quella in Viale Trento Bassa o quella in Via Gorizia, angolo Via Non è Sole? Via Prunizzedda, quella di Via Prunizzedda era aperta. Ah, via Prodiceda, più in alto però di me, quella molto più in alto, che praticamente è dietro la numero 5, la scuola media. Sì, quella lì. Poi, beh, logicamente poi sono sceso dalle parti tue per andarmene a casa, cioè a casa. Sono andato a Platamona, da lì. Sono sceso al bar, ho telefonato a Bruno e Bruno ha detto, ehi, non ci scendo oggi perché devo andare in campagna, devo vagare, e vabbè. Ci sentiamo un altro momento, ho girato il culo alla macchina e me ne sono tornato, solo intanto non ce n'era, io sono sceso più che altro per il sole, adesso se domani fa soleggiato, scendo lo stesso. Diga. Ma infatti io prima mi sono affacciato, ma ho visto come un velo, come se fosse velato il cielo, credo che tuttora, lo vedo biancastro, sì, sembra velato. Sì, se non c'è sole non ho alcun interesse io andarci lì, intanto per uscire, per non stare chiuso qui dentro. Sì, infatti adesso che le giornate miglioreranno, no? Per fare un po' di elioterapia, tu puoi andare alla rotonda lì e portarti una sedietta, non dico l'asciugamano perché ti devi sdraiare quasi, no, una sedietta, ti togli la maglietta e prendi sole, capito? E quello fa bene perché ti aiuta proprio a metabolizzare la vitamina D, vero? D di domodossola, se non sbaglio. Sì, si conferma proprio così. Addio. Anche io dovrei fare lo stesso perché sole, vabbè, ben poco. Io vabbè esco in moto, bene o male, un po' di sole lo prendi. A proposito, stavo guardando delle previsioni. Ieri di sfuggita avevo visto un articolo che diceva che adesso la perturbazione residua si sposterà tipo a est e forse arriverà dalla parte del Marocco una botta di bolla di calore. Se cominciamo così, povero me, io morirò quest'estate. Ci muoio. Perché per il caldo che sta facendo non me la sento fisicamente proprio, già non me la sento normalmente, di andare al mare. E sta cominciando il cuore sempre più affaticato, sta diventando veramente impegnativo, anzi proibitivo per andare al mare. Per il caldo mi toglie il fiato, è terribile, guarda, in becendera. Io stamattina stavo per cadere di quanto sono debole, L'alimentazione tua è bilanciata, sì, tu già mangi un po' di tutto, un po' di carne, un po' di verdura, un po' di frutta, che frutta e verdura sono vitamine, la carne sono proteine che servono. Lo sai perché te lo chiedo? Perché a me non sta piacendo molto né la carne né il pesce. Lo sto mangiando raramente carne e pesce. Quindi proteine io non ne sto mai assumendo. Io mangio di solito un primo. E quindi carboidrati più che altro, però proteine e vitamine poche, frutta non ne sto mangiando, per cui io posso capire magari questa stanchezza, no? Adesso però piano piano sto iniziando a prendere un po' di carne, per quanto non stravedo io magari per la carne, per esempio anche a Pasqua, no? C'è gente che si fa a pezzi. Sì, io ho mangiato un pezzettino di pollo e un pezzettino di... cos'era l'altro? Agnello o maiale o tutte e tre, insomma, proprio un pezzettino, poco. Non sono un carnivoro di quelli accaniti, capito? E io non ne ho mangiato nulla a Pasqua, lo sai. Ne ho mangiato 4 gamberoni e poi ne ho mangiato il primo e basta. Non ho mangiato altro. A Pasqua proprio non ne avevo carne, nulla. Sì, beh, i gamberoni sono buoni, è un'alternativa buona il pesce, anziché la carne, forse anche più leggero, come dire. Sì, sarebbe stato bello che adesso, anche come secondo, un'oratina al sale, sai, cotta sotto il sale grosso, no? Come piace a me, poi togli la pelle e un bijou. E anche i gamberoni, accompagnata poi da alcuni gamberoni, sì, buono. Sì, vedi? No, non ho mangiato nulla. Oggi invece ho mangiato due pezzi di salsiccione, ma piccoli, mi. E un coso, e gli gnocchi al ragù. Ho mangiato. Ehi, a quelli piacciono a mamma mia. Gnocchi al ragù, gnocchi alla sorrentina, così, roba del genere. Adesso decido cosa fare. Io avevo preso degli gnocconi, specie di ravioletti, più gnocchi della forma, gnocconi ai funghi. Sai quelle cose di Lidl, no? E quelli li puoi fare sia in rosso e sia con la panna. Però, mentre con la panna tu senti il sapore di funghi bello definito, se tu metti il sugo rosso, gli copre il sapore di funghi. Non lo senti il fungo, allora forse è meglio farli con la panna e dopo glielo propongo a mamma. Sì, infatti. Al limite poi cazzo di la carbonara a fare l'assai. Beh, non l'ho mai fatta, però seguendo la ricetta la potrei fare, sì. È che non abbiamo guanciale, non ci abbiamo pancetta. L'ho finita ieri tutta la pancetta. Se no un giorno potrei provare, dai. Ci vuole l'uovo anche, no? Da mettere quasi semi crudo un po'. Alla fine cottura si mette. Non stai dicendo niente. Vuole fatto la cremina, vuole fatta, vuole. Già te lo spiego io come si fa la carbonara. E da voi mi dirivi rue, così cremosa esce, ma lo sai quanto c'è buono. Non sai perché? Perché in TV, se guardi i chef soliti, fanno le variazioni della carbonara, no? C'è chi lo mette crudo alla fine, c'è chi invece fa tutto un misto, c'è chi lo fa cuocere troppo anche l'uovo alla fine. Aspetta. Dimmi. No, aspetta che mi sta chiamando, un attimino. Gaba gaba, ho visto, ieri ho chiesto come mai non entrava Luca, non l'avevo sentito, aveva condiviso una foto lì dell'ospedale con c'era una specie di cosa, o i tamponi aveva nel naso, una cosa del genere. Sì, perché l'hanno operato, non sarà uscito ancora forse. No, non credo, boh. Sì, sarà operato ai turbinati, lì, per il setto nasale o giù di lì, dai. Sì, aveva il setto nasale deviato, a quanto ho capito. Sì, è un bel di gente, ce l'ha così, io, mamma pure. Cioè non è bello dritto. Anzi, rispetto a una volta il naso mio era molto più storto, poi quando ho fatto l'operazione a Coso lì a Milano, anzi una bella raddrizzata gliel'hanno data un po', no? Con lo scalpello credo, brutto a vedersi, quando ti raddrizzano il naso a scalpellate, capito? O meglio quando te lo rompi quello, quando te lo rompi proprio con lo scalpello da una narice e l'altra, tac tac, e poi ti mettono le stecche, i tamponi, quella roba lì. Mamma mia, a me l'ernia me l'hanno fatta da sveglio. Che cosa da sveglio? L'ernia. Mi hanno fatto un'iniezione alla schiena e basta. Però ero sveglio io quando stavano tagliuzzando. Uff, mamma mia, a me non piace, io preferirei essere addormentato. Che a me viene fino a sentire bisturi, coso, mamma mia, cucci. Ma non senti nulla. Un mago quello lì, ma sapeva proprio dove pungere. Mi si è gonfiata la gamba, tutta la parte dove dovevano operare. Mettere i forzi, non tu. Rilusso veramente. Mi hanno messo un telo davanti per non vedere, no? Però loro già. Deve essere, lo fanno con quei macchinari, che cazzo ne so. Magari sì, adesso tipo la paroscopia, no? No, hanno fatto una hanno proprio fatto una cicatrice, hanno tagliato proprio col bisturi. Ma deve essere che lo fanno con quei macchinari che hanno loro, capito? Il chirurgo vicino non ce l'avevano, lui era dietro e deve si organizzava la situazione. Ha poco preso. Ma dicevano che con il 5G un chirurgo poteva operare dall'altra parte del mondo in diretta con un robot, un chirurgo robot, no? Era comandato dal chirurgo vero dall'altra parte del mondo, però mi sa che il 5G non è venuto come dicevano loro, tipo con latenza zero millisecondi di latenza, boh, pare strano. E infatti, io non mi ero fidato a farmi operare, si vede a che cosa vivono i beni, sicuro da operazioni è. E se no in laparoscopia me l'hanno fatto, la colicisi mi hanno tolto, cazzo mi hanno cotto quattro bugnarati, vedi tutti. Ecco, ah, ecco sì, la colecisti la fanno così, quando fanno 3-4